fratello. È una bella cosa, dicevano le madri. È una bella cosa. Però non mi hanno fatta entrare. Allora ci ho pensato io. Ho trasformato la mia stanza nella stanza di una Clarissa. Non l'avevo mai vista, la cella di una suora. Io l'ho fatta così, come la immaginavo. E mi sono nominata da me Suor Isis. Geremia. Geremia Olsen. Ora il suo nome fa paura per il modo in cui morì. Prima faceva paura per il modo in cui suonava la chitarra. Geremia sposò Rebecca. Marmellata di fragole. Innacqua ragazza di buona famiglia. Vissuta nel sottofondo. Nel sottofondo della vita di mio fratello. Geremia sposò Rebecca, ma ebbe un figlio da Marion. Marion? Occhi di rana. Bellissimi! Capaci di un disgustoso languore. Quel figlio venne chiamato Ezra. Ezra Mortimer, il bastardo che suona la chitarra con le unghie laccate di viola. Marion era la donna di un altro, Zacharia Vanderblit, quello che non ha tormenti tranne quando manca il ketchup. In famiglia sparlavano di mio fratello. Marion raccontava un mucchio di stronzate sul conto di Geremia. Vanderbilt stava zitto, che 13 anni Ezra disse a Vanderblit che mi aveva piene le palle di lui, che voleva conoscere questo Jerry, Jeremy Olsen, il più grande chitarrista della storia. A quell'incontro c'ero anch'io. A quei tempi là. A quei tempi là. Mi chiamavo Isabel. Ora sono Isis. Suor Isis. Ora leggo la Bibbia. La Santa Bibbia. Tutti i giorni. io potevo stargli vicina. Dormire con lui. Solo io potevo portargli da mangiare. Per liquidarmi. Perché queste cose le dicono per liquidarmi? Ma chi? Chi? Chi ti vuole liquidare? Quelli là! Quei bastardi! Quei bastardi veloci! Quei fattuti bastardi e le loro dita veloci sulla chitarra! Più veloci delle mie, capito? Più veloci delle mie! Vicina. Cosa dicono? Cosa dicono le enciclopedie? Cosa dicono? Non capivo. Di me? Di me? Cosa dicono di me? Cosa dicono le enciclopedie? Che sei? Che sono? Che sei? Che sono? Cosa? Così. Guarda bene! Guarda bene, scema! Scema! Dicono probably! Probably! Probabilmente il più grande, ok? Ok, Jerry, lo sei? Ok? Della storia, ok? Nella storia, ok? Ma adesso! In questa ora è Sai quanto ci mette mio figlio? Ezra. Sai quanto ci mette a fare quella solo? 19 secondi. 19 secondi. 19 secondi. 19 secondi. Sai quanti ce ne metto io? 22. 22! Non è certo dei più bravi! Non è certo dei più bravi! Ci saranno almeno 200 veloci bastardi virtuosi senza un cazzo di musica, un cazzo di niente, più veloci di lui! Quindi? Almeno 2000 veloci bastardi più veloci di me! Mi vogliono morto! Chi ti vuole morto? Chi? Geremia? Chi ti vuole morto? Chi? Quella! Thank you. Non pensava a me. Non pensava a me, che gli dormivo vicina. Pensava solo a quei merdosi 22 secondi. Diventava pazzo per quei 22 secondi. Pazzo! Mio fratello non credeva in Dio. Non credeva nella Santa Vergine. Credeva nel diavolo! Ascoltami, Isabel. Ascoltami. Io mi faccio mettere una mano nuova. È logico. Mi faccio sostituire la mia mano sinistra con un'altra mano artificiale, meccanica. Mi faccio impiantare dei microchip nel cervello, Il trapianto di una mano nuova con sette dita, pollice, indice, due medi, due anulari, un mignolo. Rivestita di un'apparenza di carne, rasa con le unghie, con le vene, un computer in ogni dito. Veloce. Una mano meccanica, artificiale, microchip nel cervello. Io mi faccio mettere una mano nuova, artificiale, è logico. E mi faccio sostituire la mia mano sinistra con un'altra mano, il trapianto di una mano meccanica, artificiale, con sette dita, pollice, indice, due medi, due anulari, un mignolo rivestito di una barrezza di carne rosa, con le unghie, con le vene, un computer in ogni dito, veloce, la più veloce del mondo. Artificiale meccanica con sette dita, un computer in ogni dito. Rivestita di un'apparenza di carne rosa, con le unghie, con le vene. La mano meccanica. La mano meccanica. La mano meccanica. Ah sì? Io li fatto tutti. Vi faccio mettere una mano nuova artificiale, io vi fotto. Merendine, senza un cazzo di musica, un cazzo di niente, le date nel cervello. Ah sì, io vi fotto con la mano veloce, vi fotto tutti. Spappolini. Ti senti, Isabel? I cadaveri squittiscono. Non lo sai? Cretino. Una mano nuova. E io mi faccio una mano nuova. vedo. Vedo la gente in delirio. Alla vista della mia mano meccanica, della mia mente prodigiosa, capace di comandare a sette dita. La mano continuerà a suonare anche dopo la mia morte. Putrefatto. Ma la mano continuerà a trascinare il mio scheletro sul palco. Velocità. Non erano i 22 secondi. Se non fossero stati i 22 secondi, sarebbe stata qualche altra cosa. C'è un tappo che ci tiene tutti laggiù, in fondo. Di cosa hai bisogno, fratello? Non lo so, amica mia. Non lo so. Vado. Poi la riprendo. sto lì. 3 ore. A decidere. Cosa mettere. Poi, dopo 3 battute, lo spengo. Accendo il televisore. Poi lo spengo. Torno alla chitarra. La guardo. Poi la lascio dov'è. Qualunque cosa faccia, sento che sto sbagliando. Qualcosa di buio che mi rode dentro, che mi fa piangere tutto il tempo. Mi chiamano a fare questo e quello. Dico, qualche volta sì. Dico, qualche volta no. Poi non faccio niente. Nelle cose del sì, né quelle del no. Poi ancora mi pento. Mi dico, balordo, balordo. Hai perso una bella opportunità. Sedeva sul tavolo, dritto, come un serpente velenoso. ascoltami. Non me la faccio più mettere la mano nuova. È inutile. Il fatto è che Ezra mette voglia di cantare, capito? Ezra mette voglia di cantare, io no. Ezra ha la musica. Io non ho nessuna musica, capito? Ezra sa sempre quello che deve suonare, per questo mette voglia di cantare alle ragazze. Io no, ok? Ezra suona in salita, io suono in discesa e quella maledetta scala non mi riesce più di farla, ok? Io sono una noia. Ok. Geremia si chiuse nella sua camera rossa e non uscì più. L'ho trovato una mattina. Disteso per terra. In un mare di sangue. Non provai nulla. Ero così secca che pensai di farmi suora. Una simile secchezza. Mi sentivo di nuovo vergine. La sua mano sinistra non era più attaccata al braccio. La sua mano era da un'altra parte, vicino alla colonna. Se l'era staccata con una scure. Mi chiesi con quanti colpi l'avesse fatto. Che domanda idiota. Ma fu questa la mia domanda? Non un'altra. Da allora ho sempre la sua immagine davanti agli occhi. Giorno e notte.